I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Delle volte ci sono delle notizie e dei segnali che raccontano molto di più di tante analisi quello che sta avvenendo, e ci riferiamo in questo caso all'economia internazionale. Abbiamo raccontato infatti in queste settimane, in questi mesi, della forte ripresa economica negli Stati Uniti, che si sta sempre più strutturando, e delle difficoltà che invece stanno attraversando tutte le economie considerate, a torto o a ragione, le vere locomotive della crescita mondiale futura, che ora stanno arrancando, e ci riferiamo chiaramente a Brasile, Russia e Cina, con la sola eccezione dell'India. Perché lo diciamo? Perché mentre ormai la maggior parte degli analisti al mondo scommette che il rialzo dei tassi americani avverrà già a dicembre, sul fronte dei paesi emergenti abbiamo assistito a una notizia di carattere diametralmente opposto. Ci riferiamo al fatto che una delle più importanti banche d'affari al mondo, si chiama Goldman Sachs, ha deciso che è finita l'era dei BRICS. Ha chiuso il fondo di investimento dedicato appunto ai BRICS, a Brasile, Russia, India e Cina, e l'ha accorpato a un fondo di investimento più generico dedicato genericamente ai paesi emergenti. È stato come sancire la fine di una diversità che non c'è più e ricordare a tutti noi che al di là dei paesi emergenti le prospettive dell'economia internazionale si baseranno ancora una volta sulla classica America a stelle e strisce, sperando che all'appello risponda questa volta anche la vecchia Europa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Torna a salire a settembre la produzione industriale. L'indice destagionalizzato è aumentato dello 0,2% rispetto ad agosto, mese in cui si era registrato un calo congiunturale di quasi mezzo punto. Sono i dati annunciati stamattina dall'Istat e l'indice corretto per gli effetti del calendario a settembre 2015 aumenta in termini tendenziali dell'1,7%. È una buona notizia quindi per la ripresa e si aggiunge alle ultime rilevazioni sulla fiducia per imprese e consumatori che dopo tanto tempo volgono finalmente al bello, e si aggiunge anche al dato dell'inflazione che segnala una qualche ripresa dei consumi anche per il cosiddetto carrello della spesa, e questo è un buon segnale per l'indice di fiducia. Nella media del trimestre luglio-settembre 2015 la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre, a fronte di una variazione nulla invece registrata nel trimestre giugno-agosto rispetto al precedente. Quindi nella media dei primi 9 mesi dell'anno la produzione industriale aumenta dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Insomma, non siamo di fronte ancora a incrementi che facciano pensare a una robusta inversione di tendenza, quanto piuttosto siamo di fronte a una lenta risalita dal gorgo della recessione. La ripresa comunque è in atto e va solo irrobustita. Il dato dell'auto peraltro dimostra davvero di cosa parliamo quando parliamo di controtendenza. La produzione di autoveicoli a settembre rispetto allo stesso mese del 2014 ha segnato un più 53,1%. Tra gennaio e settembre 2015, su base tendenziale, quindi la produzione di autoveicoli ha registrato un più 45,6%. Insomma, se questa performance fosse trasferibile a tutti gli altri comparti, l'Italia sarebbe davvero fuori dai guai. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.